Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da marzo a dicembre del 1804. Napoleone imperatore di Francia, la dittatura di Bonaparte si trasforma in monarchia. Stati Uniti, l'ex segretario al tesoro Hamilton ucciso in un duello col vicepresidente Burr. Parigi ripristina la tassa sul sale, proibito prelevare l'acqua di mare. Popolazione mondiale in costante crescita, toccata la soglia del miliardo. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Promette di avere un impatto anche sull'Italia la notizia che arriva da Parigi. Bonaparte è da dicembre imperatore, autoincoronatosi in una cerimonia accompagnata da una musica solenne. Non si è fatto mettere in testa la corona da Papa Pio VII, ma l'ha presa lui stesso dal cuscino sul quale gli era stata porta nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Anche in una cerimonia così solenne, quella che Napoleone Bonaparte ha voluto che si celebrasse per la sua ascesa al ruolo di imperatore, il generale non ha mancato di stupire, con un gesto che ha fatto capire come egli intende il potere, derivato direttamente dalle sue mani e dalle sue forze, non da un'entità superiore. Non ripeterò, sembra che abbia detto, l'errore di Carlo Magno, tanto che il titolo che ha deciso di assumere non è di regnante per grazia di Dio, formula tipica dell'Ancien Régime, ma imperatore dei francesi per volontà del popolo. In maggio le premesse a questa cerimonia, il via libera del Senato francese, ma anche un plebiscito, 3,5 milioni i voti favorevoli, poco più di 2,000 i contrari. Al di qua delle Alpi si attende e si immagina che quella frazione dello stivale che è chiamata Repubblica Italiana, fra breve diverrà una monarchia. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Andiamo negli Stati Uniti adesso. L'ex segretario al tesoro americano Alexander Hamilton è stato ucciso in un duello dal vicepresidente americano Aaron Burr sulle rive del fiume Hudson. Al centro della contesa i dissidi politici e i tentativi di Hamilton, conditi da espressioni al vetriolo, di troncare la carriera politica di Burr. Secondo alcune voci, Hamilton avrebbe acconsentito al duello, vietato peraltro nello stato di New York, anche per perseguire questo obiettivo e per commettere una sorta di suicidio assistito. Burr è fuggito dopo 11 giorni, ma è poi tornato in città e ha ripreso possesso del suo ruolo, seppure sia sotto processo. Intanto il presidente Thomas Jefferson si avvia al suo secondo mandato dopo la vittoria elettorale contro il federalista Charles Pinckney. Jefferson ha sfruttato appieno la popolarità guadagnata con l'acquisizione della Louisiana. Abolita durante la rivoluzione, la tassa sul sale è stata ripristinata dal neo imperatore per sostenere le forti spese militari che il suo governo richiede. Siamo in Francia, naturalmente. 2 centesimi per ogni chilo, questo l'importo, mentre ai cittadini francesi è teoricamente proibito prelevare anche solo 1 litro di acqua di mare senza il permesso del Ministero delle Finanze. Continua a crescere la popolazione mondiale. Secondo le stime dei demografi sarebbe stata superata la soglia del miliardo. L'avanzata è stata impressionante. All'inizio del 600 si calcolava che gli esseri umani fossero la metà di quelli che sono oggi. Se i tassi di crescita dovessero rimanere gli stessi, si presume un nuovo raddoppio in poco più di un secolo. Ed è tutto per questa edizione, curata da Simone Spezia, che l'ha condotta, e Paolo Piacenza. Sul nostro sito www.radio24.it, come sempre, oltre a riascoltare la versione audio del Gazzettino, potete anche scaricarne una versione da leggere e, volendo, stampare. Se volete scriverci e non avete penna e calamaio, l'indirizzo email è gazzettino@radio24.it.